si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Credo che ci sia un'incompatibilità di fondo, per cui fondamentalmente, a parte delle eccezioni, gli italiani non vogliono gli islamici in Italia perché sono culture incompatibili, perché gli islamici non sono democratici, perché gli islamici perseguono tutti una teocrazia. Colpire quegli strumenti di comunicazione che fanno sì che quel fenomeno si diffonda. Questo, come farlo, io non ho dubbi che si debba fare in tutti i modi possibili, fino ad arrivare perfino alla censura. Io sono assolutamente d'accordo col direttore di Repubblica che non debbano essere fatte vedere le fotografie dei terroristi. 18:34 minuti, buonasera a tutti ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati con Si può fare, buonasera da Alessio Maurizi, stiamo insieme fino alle 20. 800 24 00 24, vi aspettiamo. L'argomento di censurare per esempio le foto, i nomi, le didascalie dei terroristi sui giornali è una proposta che ha fatto il quotidiano Le Monde in Francia, però dovrebbe riguardare tutti i mezzi di informazione, non solo i giornali, che ormai, insomma, non per essere cattivi, ma hanno un po' meno seguito che in passato, dovrebbero farlo anche le televisioni e soprattutto il web. Crepè non ha paura di dire censuriamo anche il web, censuriamo le chat, censuriamo tutto quello che serve per metterci in sicurezza, se questo può servire. 800 24 00 24. Iman, ma lei, ma che ci fate qua? Ma perché non ve ne andate? Cioè, che cosa volete in Italia? Le rispondo subito. Lei capisce che gli italiani non vi vogliono. Io sono più italiano di lei. Vada lei via, questa è casa mia. Se lei non è contento, vada lei via, questa è casa mia. E io qui porto avanti l'Italia. E la purifico dalle persone come lei, che non meritano neanche di essere chiamati italiani. E questo è lo scontro tra Filippo Facci e Lorenzini, un rappresentante delle comunità islamiche in Italia. Si continua a fronteggiarsi nei talk show, a discutere molto animatamente, come se non ci fosse già abbastanza casino, abbastanza animi agitati. Continuiamo, lo dico a Filippo Facci, continuiamo a dire che tutti gli islamici sono nostri nemici, che tutti gli islamici, tutti i musulmani perseguono una teocrazia, che tutti gli islamici sono incompatibili con noi. Anche se ce ne fosse uno solo che è compatibile con me, io non userei la generalizzazione tutti gli islamici sono. Anche se ce ne fosse uno solo, non sia mai che quello lì, l'unico che non è ancora arruolato, è indeciso e invece magari viene convinto a cosa? Ad agire anche lui. 800 24 00 24, ancora vai. E allora le persone che sono che arrivano via mare, cosa faccio? Le seleziono sui barconi? Certo. Ma di cosa stai parlando, Marcato? Ma tu hai il coraggio con le immagini che vediamo tutti i giorni, con i nostri soldati impegnati a salvare vite umane, quelle che riusciamo. Tu riesci a sentire un attimo a dirmi che li dobbiamo selezionare in mare? Comunque la pensiate. Intanto vi aspettiamo naturalmente per intervenire in diretta. Lo ripeto, 800 24 00 24. Ma siccome questo Si può fare è il programma che cerca di rovesciare l'ordine delle notizie, partendo da quelle buone quando è possibile e che cerca di vedere buono dove c'è, allora c'è un appello, l'appello degli imam francesi, raccolto, perché oggi c'è stato un momento di raccoglimento, fedeli cristiani e fedeli musulmani insieme in chiesa a Saint-Étienne, nella cittadina dove è stato ucciso il prete, vicino a Rouen. Poi sono andati in moschea, eccezionalmente un prete ha potuto parlare in moschea. Ecco, allora questa cosa qua, facciamola anche in Italia. musulmani domenica in chiesa a pregare, perché no, a pregare, a fare messa, però non a pregare il loro Dio, preghino l'altro Dio. E così il contrario, cristiani nelle moschee, come oggi è accaduto in Francia. Bisogna farlo, ci vuole meno timidezza. Queste iniziative, mi piacerebbe dirlo alla Benigni, una mucchiata di fedeli di religioni diverse insieme. Pensate che effetto per chi invece teorizza la purezza, che lo porta poi all'azione estrema, la contaminazione più spinta, tutti insieme, abbracciati, il contagio. Questa è la democrazia, rispetto delle regole, ma anche la tolleranza e l'incontro vero con chi la pensa diversamente da te, perché è facile tollerare chi è uguale a te. Cosa facciamo con i 2 milioni di musulmani che sono in Italia? Li carichiamo su delle barche, li espelliamo? Sì, anche sì. Intanto cominciamo a chiudere tutte le moschee regolari. Ancora alto il tema Rai, dopo la trasparenza voluta dal governo, gli va riconosciuto di aver messo online tutti gli stipendi dei più alti, soprattutto, che hanno fatto indignare giustamente moltissima gente, tutti, perché ci sono dirigenti che non dirigono più niente, che guadagnano 300.000 euro l'anno. C'è un altro allarme lanciato oggi dal presidente della commissione di vigilanza Rai, Fico, che dice: attenzione, perché martedì prossimo c'è un consiglio d'amministrazione della Rai, potrebbero nominare nuovi dirigenti, nuovi direttori dei telegiornali, per silenziare completamente la Rai in vista dei referendum. Intanto, ancora sugli stipendi, sui volti vecchi e nuovi della Rai, Gaspari. Si rifirano Pippo Baudo, che non mi pare né digitale, mi pare vegetale più che digitale, nel senso che vive vegeto per sua fortuna, così Pippo Baudo e le gemelle Kessler ci fanno tornare a me bambino e a quelli più anziani giovani. Eccolo qua, Roberto Fico, buonasera, è con noi. Buonasera a tutti. Allora, presidente della commissione di vigilanza, lei oggi, intanto abbiamo scelto per lei Starman di David Bowie, le piace? Bellissima canzone, grande, sì. David Bowie, naturalmente, la dedichiamo a lei, che è, insomma, adesso poi ne parliamo, l'uomo nuovo o meno nuovo del Movimento 5 Stelle, perché si parla di futuri incarichi, eccetera, c'è il nuovo statuto, adesso parleremo anche di questo, però lei oggi ha lanciato un altro allarme per quanto riguarda la RAI, il Consiglio di Amministrazione, possibile nuove nomine, e lei dice si vuol silenziare forse la RAI in vista dei referendum? È molto importante che le nomine non vengano fatte in modo così avulso dall'idea di informazione che la RAI vuole lanciare nel 2016, nel 2017 e così via, perché se non c'è ancora un piano editoriale sull'informazione, perché ancora non è stato presentato il nuovo piano editoriale, non vedo come si può decidere prima chi e poi cosa. Facciamo le cose per ordine. Arrivassero insieme prima, il piano editoriale e le nomine martedì prossimo? Non arriveranno, questo è sicuro, quindi, perché il piano editoriale ancora non è pronto, il piano editoriale rispetto all'informazione, quindi di conseguenza se arrivano prima le nomine il 2 agosto e si deve poi gestire tutta la par condicio referendaria, mi sembrerebbe troppo azzardato. Io direi a questo punto facciamo in questo modo, ma non è un'ingerenza della politica, un'idea di gestire le cose in modo che siano coerenti. Facciamo il piano editoriale, il direttore generale lo presenta insieme a Carlo Verdelli al Consiglio di Amministrazione, se lo ritengono opportuno lo approveranno e dopo si fanno le nomine. Le nomine del 2 agosto non mi sembra un ottimo modo per... E invece se fosse invertito l'ordine rispetto a quello che dice lei, come giudicherebbe questo passaggio? Grave per la democrazia anche? è grave, loro possono farlo, perché possono farlo perché hanno la libertà editoriale e manageriale di fare ciò che vogliono rispetto a questo, però è chiaro che è grave sicuramente, non c'è dubbio che sono passati molto importanti e soprattutto alle porte di un referendum che segna la democrazia di questo paese. Lei però, ha detto che il sì al referendum è già dilagante in Rai, cioè che c'è già un'informazione allineata alla sì, maggioranza. Questo non lo dico io, lo dice l'Agcom con i dati che abbiamo ottenuto, sì, con grandissima fatica, altra lotta della vigilanza che alla fine ha ottenuto i dati erano totalmente sproporzionati, tant'è che sì, l'Agcom ha richiamato anche la RAI dicendo di trattare perfettamente con equilibrio il tema delle riforme costituzionali. E quale sarebbe l'unica voce dissenziente? Quella della Berlinguer, del TG3? No, ma non mi metto in questo gioco, è un fatto di numeri e dati. I dati dicono che l'80% dell'informazione sul referendum fino a giugno è stata trattata in forma non equilibrata, e questo lo dice l'Agcom, come lo dice con i dati e con i richiami nero su bianco che ha fatto anche alla RAI oltre che altre emittenti. Quindi è molto importante tenere la guardia sull'informazione pubblica del paese che significa la democrazia e che significa soprattutto un'informazione corretta sul referendum che segna, come ho detto prima, la democrazia in questo Senta, paese. Ancora RAI, l'operazione trasparenza, però questo è un merito o no del governo di avere fatto questa operazione? Le dico con l'onestà intellettuale massima che mi contraddistingue e ci contraddistingue come è andata la vicenda. Il novembre del 2015 il mio gruppo presenta la riforma della governance RAI, dove all'interno è inserito il piano trasparenza. Quando Renzi presenta la sua riforma, noi dobbiamo trasformare, perché loro sono la maggioranza, la nostra riforma in emendamenti, ovvero delle aggiunte e dei cambi rispetto a quella di Renzi, e presentiamo all'interno della legge di Renzi il piano trasparenza nostro che avevamo scritto, che passa, approvano, che passa. Certo. E quindi oggi è un merito che... però questo, cioè se non avessero tenuto conto della diciamo che il merito è vostro, se non avessero tenuto conto dell'emendamento piano trasparenza dell'opposizione del paese che è il Movimento 5 Stelle, sicuramente oggi non parleremmo degli stipendi in questo modo, in questi termini. Invece, siccome noi siamo riusciti con un dialogo serrato, cercando di incastrarli da dove loro non volevano arrivare, alla fine ci siamo riusciti, sono arrivati, giustamente l'hanno approvato, io sono contento di questo, già all'epoca diciamo che fu un risultato enorme e oggi è un risultato per tutti, merito per l'Italia, per il canone, per i cittadini che pagano il canone, perché oggi hanno delle informazioni che negli ultimi 40 anni non hanno mai avuto e io di questo sono davvero felice. Ognuno potrà attribuire il merito più da una parte o più dall'altra, dove preferisce, l'importante è che ci siamo arrivati. Senta, cos'è che la fa infuriare di più tra questi stipendi che ce ne sono altissimi? Ex dirigenti che non dirigono più nulla, oppure un corrispondente come il corrispondente da Rio de Janeiro che guadagna quasi 300.000 euro da Rio de Janeiro, credo che faccia un servizio una volta alla settimana. A me fa infuriare il fatto che la RAI non rispetti il tetto dei 240.000 euro e mi fa infuriare che sia il ministro dell'economia Padoan sia Renzi, che sono i colpevoli di questa operazione, non parlano. Sono silenziosi, non dicono niente. Quando è venuto Campo Dall'Orto, il direttore generale della RAI, in commissione e ha dichiarato che lui è andato al Ministero dell'Economia e gli hanno detto che avrebbe preso lo stesso stipendio dell'ultimo direttore generale. Questo però per lui era per dire che non ha contrattato e non ha rialzato e che quindi si è accontentato di 650.000 euro. Si è accontentato dello stipendio che il Ministero dell'Economia e quindi Padoan e quindi Renzi gli ha offerto in deroga al tetto. Quindi chi è andato in deroga al tetto e chi è il colpevole vero del fatto che il direttore generale guadagna 650.000 euro l'anno? Sono Renzi e Padoan, ma è chiaro questo, perché è con loro che contratti questo. Adesso le voglio chiedere però se è soddisfatto della risposta che ha dato Campo Dall'Orto, che ha parlato di un piano di autoregolamentazione degli stipendi. Io non ho capito se vuol dire che ognuno si autoregolamenterà il suo stipendio dando in beneficenza il surplus, oppure se c'è in arrivo una riforma degli stipendi dentro la RAI. Me lo spiega dopo il traffico. si può fare. Cronache da un paese migliore. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman. Allora, sempre con Roberto Fico, a quale ho chiesto di spiegarci che cosa ha detto Campo dall'Orto, se c'è una riforma che ci possiamo aspettare all'interno della RAI per contenere gli stipendi che sono elevatissimi. Però io glielo richiedo, se c'è qualcosa che l'ha fatta infuriare, indignare particolarmente anche come cittadino. Ex direttore, per esempio, di Rai 3, come Vianello, che viene pagato 320.000 euro come editorialista su temi internazionali. C'è anche questa ipocrisia, no? Perché non si dice, sì, che non fa niente. Ma più grande ipocrisia è l'ipocrisia di tutti i partiti politici che oggi parlano, quando negli ultimi 30 anni sono loro che hanno reso tutto questo schifo in Rai possibile, perché sono loro che hanno garantito le poltrone agli amici degli amici, sono loro che hanno lasciato i dirigenti con stipendi altissimi anche quando non avevano più funzioni. Quindi qui si parla, ma parlano i colpevoli. Sono proprio le persone che non possono parlare. Io mi meraviglio ascoltare queste persone, da Gasparri a tutti gli altri che hanno lottizzato la RAI in tutti questi anni e hanno fatto sì che la RAI fosse anche oggi questa situazione. Però la domanda che io le facevo è anche ha anche un altro senso, che è quello di dire che non tutti gli stipendi alti sono ingiustificati. Se uno conduce una trasmissione che fa molti ascolti, se uno è il direttore di una struttura che porta molti introiti, per esempio, alla RAI, è giusto che abbia uno stipendio paragonabile a quello che dice. Ma un corrispondente da Rio de Janeiro che guadagna quasi 300.000 euro, perché? Io mi domando perché. Che mole di lavoro può avere uno per fare? Perché la RAI è stata un'azienda terreno della politica, dove si sono infilate tutte le persone, amici dei partiti, e hanno guadagnato fior fior di quattrini. Punto. Con contratti a tempo indeterminato, fissi, garantiti, alle spalle di tutti i cittadini e con i soldi di tutti i cittadini. Questo è successo. E quello che ha detto Campo dall'Orto, secondo lei, è sufficiente? Adesso vedremo il piano di autoregolamentazione che faranno e poi vedremo, però per me il fatto che metta mano la RAI ai propri stipendi, quando c'è una legge sul tetto agli stipendi, non ci sarebbe neanche bisogno, andrebbe... la RAI dovrebbero solamente tutti diminuirsi a 240, quelli che sono sopra i 240, e se Renzi non parla è colpevole ed è ipocrita, perché lui voleva il tetto e lui non ha dato neanche un parere sulla legge rispetto al tetto degli stipendi in RAI. C'è chi dice che Renzi è deluso da Campo dall'Orto, possibile? Questo non è un discorso in se stesso che mi interessano sempre le azioni e non le parole. Per me l'azione principale è che Renzi ha lasciato il RAI, pur avendo promesso questi gli stipendi, oltre 240.000 euro, e che la RAI adesso, siccome il governo non interviene, inizia a scriversi un codice di autoregolamentazione sugli stipendi solo perché sono stati incalzati e perché sono approvato il piano trasparenza. E oltretutto sono sempre i fatti che parlano. Quando noi in Parlamento abbiamo scritto una norma per attuare il tetto dei 240.000 euro anche in RAI, il Partito Democratico ha votato no, dicendo che non era quello il luogo giusto rispetto alla legge sulla riforma della governance della RAI. Quindi noi l'abbiamo presentata in legge di stabilità, stiamo parlando del 2015, e comunque l'hanno bocciato. Quindi era tutto già scritto. Cioè, volendo si poteva fare. No, senta, volendo si poteva fare, certo. Senta, un'altra cosa, invece, che riguarda voi. Era stato annunciato il nuovo statuto del Movimento 5 Stelle, il voto online al più presto, eccetera, eccetera. È pronto? A che punto è? Ci stiamo lavorando, stiamo prendendo il tempo per fare tutti i passaggi in modo. Ma quando arriverà il voto? Giusto. A settembre, a questo punto, dopo l'estate? Vedremo, non è detto. Vedremo. Potrebbe arrivare anche prima? Vedremo, sì, non è detto. Però non fate anche voi che fate votare le cose ad agosto, poi vi accusano che la gente è in vacanza e fate i blitz ad agosto, perché questo è un tema delicato, quello dello statuto del movimento, o no? Sì, ma non esistono blitz, sono solo passaggi che si possono fare tranquillamente in rete, dovunque sei, dal tuo telefonino puoi sempre votare. Però è vero che state lavorando ad un nuovo comitato direttivo, in qualche modo allargato, che possa alleggerire Grillo dalla questione del gara, di essere garante? mi sembra che l'abbia scritto la stampa, ma sì, non è vero niente. Ah. Quindi non è vero che Grillo farà un passo indietro in quanto a essere garante del movimento? Beppe rimane il garante del movimento e il capo politico del Movimento 5 Stelle. Questo è una certezza, questa è una certezza. Il garante anche dal punto di vista delle regole. La questione degli espulsi di Napoli che sono rientrati dopo un'ordinanza del Tribunale, se ho capito bene. Sì, un'ordinanza appunto e non una sentenza. Un'ordinanza esatto, cautelativa, ovvero significa li riammettiamo nel frattempo che facciamo il processo. Però il qualche processo grana può averla aperta, perché questo può creare dei precedenti, cioè tutti gli espulsi a questo punto potrebbero fare dei ricorsi, sarebbe un po' un caos, o no? Sì, possono fare ricorso se vogliono, non so, però c'è la sentenza di Roma che è opposta a quella di Napoli, per esempio, quindi ogni sentenza dice a volte qualcosa di diverso. Noi andiamo per la nostra strada mantenendo i nostri principi, i nostri valori, coerenti, e cercheremo anche di migliorare nello statuto l'esplicitazione dei nostri principi, dei nostri valori, dei nostri metodi. Quindi non sarà uno statuto rivoluzionario per il Movimento 5 Stelle questo qua? Come lo definirebbe quello a cui state lavorando? Il nostro statuto rivoluzionario è sempre il no statuto, che fondamentalmente rimane invariato. Ma chi ci sta lavorando? Perché si era letto di parlamentari dubbiosi perché non sapevano chi stava concretamente scrivendo questo statuto. Ma i parlamentari dubbiosi non so, perché noi condividiamo tutto e ci parliamo tutti i giorni e siamo insieme nelle riunioni, quindi sono sempre un po' di fonti giornalistiche. Ma quindi chi lo sta scrivendo questo statuto? Beppe è il garante del movimento, quindi anche il garante della scrittura dello statuto. Quindi lui direttamente insieme a qualcun altro che lo sta aiutando? Certo. Qualcuno del direttivo? Di voi cinque? Ma non penso che alle persone interessa così tanto sapere chi materialmente lo scrive. Io penso di sì. Beppe sicuramente è la persona ci sta in questo momento. Senta, io ho 30 secondi, però glielo voglio chiedere. A Roma si è parlato di un patto segreto prima delle elezioni tra Cerroni, che gestisce la discarica di Malagrotta, Lama, e il vostro onorevole Vignaroli. Ma questo è una bufala incredibile, perché proprio Stefano Vignaroli, che secondo me è un grandissimo parlamentare che si è occupato che si occupa da 10 anni della situazione dei rifiuti, sì, e che ha accusato in tutti i modi la gestione scellerata di questo pseudo imprenditore, anche con la discarica di Malagrotta che è stata terribile, che va chiusa, che ha rovinato la salute alle persone che abitano intorno alla discarica, quindi è veramente un'enorme stupidaggine questa. Però può darsi, perché il numero uno dell'AMA l'ha detto, si ricorrerà forse a Malagrotta ancora. Il numero uno dell'AMA è dimissionario, deve parlare con il sindaco. Va bene, grazie, buona serata Fico, ci risentiamo dopo il GR, a più tardi. Attenzione, attenzione, fermi tutti, uscite immediatamente dall'acqua, mollate tutto, pinne, braccioli, salvagenti, accendete Radio 24 e ascoltate i Fuori Posto. Com'era Fili, li ho convinti? Sì, per me andava bene, ma c'è solo un piccolo problema, non hai spiegato perché le persone dovrebbero ascoltare sto programma, ma di che parla? Ah sì, è vero, c'è ragione Filippo, aspetta. Cari bagnanti, tutti voi almeno una volta nella vita vi siete sentiti fuori posto, e noi parleremo di quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro nel cuore di qualcuno, quelli che un posto prima ce l'avevano e ora non ce l'hanno più, e parleremo anche di quelli che invece hanno scelto di stare nel posto sbagliato. E chi lo conduce? Come chi lo conduce? Filippo, io e te. Dal 1 agosto Umberto Alezio e Filippo Roma saranno i Fuori Posto, dal lunedì al venerdì alle 10 su Radio 24. Aspetta, lasciateci i vostri messaggi a ifuoriposto@radio24.it o allo 0246524182 o via sms al 349-2386666. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Living easy, living free, season day going on. Di Maio è democristiano, cioè uno, per amor di Dio, cioè, è un bel democristianone, Di Maio, mica prendiamoci bene. Di che corrente è Di Maio? Cioè, voglio dire, e sono queste cose qua, cioè, e dice, vai in Vaticano, dice, casa mia, raccogliamo le lobby, parliamone, e facciamo benissimo. Anche la Raggi è stata... Per amor di Dio, tutto quanto. Ci era mancato Bersani, che è tornato con le sue iperbole, con le sue definizioni. Di Maio, un non ci riesco neanche a dirlo, come è fatto a dirlo? Democristianone. 800 24 00 24, buonasera ad Alessio Maurizi, ben ritrovati. E allora, vabbè, già che avete sentito il promo di un nuovo programma estivo di Radio 24 e Fuori Posto, allora vi ricordo, stasera cambia la programmazione, perché da lunedì parte tutto il nuovo palinsesto. Tra le novità, oltre Filippo Roma, la Iena, che farà un programma quotidiano Fuori Posto, torna Nessun Luogo è Lontano, un approfondimento di esteri con Giampaolo Musumeci, torna Le Olimpiadi Spiegate a Mio Figlio con Federico Taddia, visto che ci avviciniamo, ormai manca, ci siamo alle Olimpiadi. Poi c'è anche Globetrotter 24, un programma della redazione, Annalita D'Ambrosio e Valeria De Rosa, alla scoperta di luoghi, destinazioni, mete turistiche raccontate in modo particolare. E così abbiamo fatto anche questo. Vai 800 24 00 24, vi aspettiamo. Cioè, l'idea di prendere e di licenziare in giro di 48 ore i furbetti del cartellino non è demagogia o immagine, è un fatto culturale. Un minimo di buonsenso, facciamoli eleggere dai cittadini, siano anche meno di 315, e facciamoli essere per 5 anni senatori, no? Che uno è senatore un anno, uno 4 anni, uno 4 anni e 3 mesi, a seconda di quando cade, magari poi viene commissariato. L'ente locale che l'ha nominato. Da pazzi, certo. C'è una legge del cazzo tecnicamente. Ma del cazzo. Però... Erdogan è palesemente un dittatore a livello di Kim Jong-un o di altri personaggi del genere. E così abbiamo chiuso con la piroetta di Salvini, che vi ricordate quando andò in Corea del Nord in visita insieme ad Antonio Razzi e disse che insomma era un paese quasi per bene. Mi ricordo che usò questa espressione, anzi dico la verità, sono andato a controllare. È un paese dove c'è un grande senso comune. Del bene comune, dove lo Stato tira tutto, il lavoro, la casa, eccetera, eccetera. Adesso Kim Jong-un diventa quello che è un dittatore, e così anche Erdogan. 800 24 00 24. Non vi faccio sentire altro, ma faccio sentire i vostri interventi. Invece, cari ascoltatori, cominciamo con Carlo da Roma. Buonasera. Buonasera, Maurizi. Eccoci qua. Allora, a parte, vabbè, così la battuta, la coerenza dei nostri politici non è la migliore qualità, certo. Mai stata, ma quasi di nessuno. Quasi di nessuno, senza fare generalizzazioni. No, io volevo tornare un attimino sul discorso delle ciclabili di cui si parlava ieri. Sì. Che è una cosa che mi colpisce molto, proprio perché pratico da 38 anni praticamente, ho la passione della bicicletta, vado regolarmente... La miseria, Carlo, ma perché da 38 anni dici, c'è stato un giorno in cui preciso, che te lo ricordi, che hai iniziato? All'età di 15 anni sono andato a lavorare un'estate, i famosi lavoretti estivi che si facevano per comprare la mia prima bicicletta da corsa, con il mio completino della chic, perché era l'epoca di Saronni e Moser, io pur essendo moseriano comunque mi piaceva Saronni e il suo modo di correre. Ah, fantastico, Saronni e Moser, fantastici. Ne ho 53, quindi 53 meno 15 fa 38. Sì, me ne ricordo bene. E quindi tutto è cominciato lì, e adesso invece? No, e volevo tornare sul discorso di ieri, perché sinceramente qui bisognerebbe che la nostra classe politica cominciasse ad avere un po' una visione di quello che vogliono fare con i famosi soldi pubblici, perché bellissime le ciclo, non ciclabili, perché le ciclovie come vengono chiamate un po' dappertutto, queste ciclovie di 350-400 chilometri, ma probabilmente molti di loro non hanno mai messo le terga su un sellino, perché la bicicletta purtroppo o meno male per chi la pratica, è sofferenza, nel senso che salire su una bicicletta e percorrere 350-400 km, magari carichi di bagagli, perché sì, magari non in un giorno, perché questo è veramente per chi è super allenato, non in un giorno, comunque sì, le posso garantire, avendolo fatto, che è sofferenza, poi diventa un piacere e alla fine ci ritrovi. Però non ho capito, Carlo, cioè stai immaginandoti, auspicando che i politici vadano di più in bicicletta per imparare a soffrire, anzi per soffrire. Invece un altro discorso, sì, è qui, se vogliamo incentivare l'uso della bicicletta per decongestionare le nostre città dal traffico, dallo smog, dal caos, bisognerebbe forse cominciare, prima di pensare alle ciclovie, a rendere più vivibili per chi va in bicicletta le nostre città, cioè questi soldi pubblici, spendiamoli per fare qualcosa. Va bene, ti seguo, Carlo, però non vorrei neanche che ci fosse sempre quella cosa per cui c'è sempre un'altra cosa prima che viene, non investiamo nelle ciclovie e facciamo prima le ciclabili, no? Cioè, perché invece vanno fatte tutte insieme, forse, io credo, no? Cioè, se abbiamo appurato che incentivare l'uso della bicicletta è una cosa positiva perché decongestiona le città, fa bene alla salute, fa bene a tutto, costa poco, bla bla bla bla bla bla, e quindi vanno bene sia le ciclabili che le ciclovie, no? Bisogna scegliere. Sì, perché bisogna scegliere? Questo governo bisogna qua... Bisogna scegliere da dove cominciare, da un piccolo dato. Il ministro Del Rio, che personalmente lo ha fatto anche quando era a Reggio Emilia, gli va riconosciuto, ha fatto parecchio per le biciclette. Chi lo conosce, io non personalmente, dice che è convintissimo di questa cosa delle biciclette e ci sta mettendo del suo, no? Quindi arrivano questi 90 milioni, poi vedremo, per le ciclovie, e io direi che se lei è un ciclista deve solo festeggiare. Poi credo che Roma per le biciclette sia un disastro, ma questo credo che sia un problema quasi risolvibile, o no? Io chiamo da Roma, sì, e a Roma abbiamo il raccordo anulare che sono circa 70-72 chilometri, e realizzare il grab di 72 chilometri intorno Roma, a mio parere non ha senso, perché la maestra o l'impiegato non comincia a girare intorno Roma su questo raccordo. Vabbè, ma questo magari è possibile. Dalla periferia va verso il centro. Questo è possibile, forse... Carlo, questo è possibile, staremo a vedere, pigliamo con fiducia quello che arriva, ricordiamoci dei ciclisti, che ha ragione lei, che ogni giorno vanno da casa all'ufficio e che bisogna preoccuparsi anche di quelli. Grazie. Stasera vogliamo dare spazio a un'idea innovativa, un'idea che funziona, una startup che si sta allargando. Addirittura nei giorni scorsi abbiamo letto sui giornali di un incontro tra il suo fondatore, che tra l'altro è qua con noi, Roberto Macina. Buonasera, ciao, benvenuto. Buonasera, ciao, grazie mille. Fondatore di Kurami, con niente poco di meno che il numero uno della Apple, Tim Cook. Stiamo parlando di una app che permette di saltare le code, sostanzialmente. Ci racconti un attimo come funziona? Guarda, come hai detto, è un'app gratuita disponibile presso gli store del proprio smartphone, dove è possibile scaricarla, appunto, geolocalizzarsi, vedere intorno a noi tutti i posti dove non fare la fila. Quindi basta selezionare il posto, il servizio, e Kurami di fatto eroga il famoso numeretto, ma direttamente dallo smartphone. Grazie a questo numeretto io posso sapere in tempo reale quante persone ho davanti e quindi recarmi in ufficio solo quando tocca a me. Cioè, quindi non devo andare in posta a prendere il numeretto e aspettare? No, lo puoi prendere prima. Lo prendo direttamente tramite smartphone? Esattamente. Quindi devo vedere se c'è un ufficio postale vicino a me che però aderisce naturalmente alla app. Sì, diciamo che c'è tutto da un ufficio postale in questo momento, ecco, trovi comuni, ospedali, banche, dottori, trovi di tutto, sì, e quindi dipende da quello che ti serve, che è intorno a te, o magari se c'è tanta fila anche più lontano da te, mm-hmm, perché l'app ti calcola in base alla tua posizione cosa puoi prendere, che numeretto puoi prendere intorno a te, e a quel punto il gioco è fatto. È il sogno di tutti, comunque, è ovvio, saltare le code, chi non vorrebbe saltare le code? Però questo sistema funziona, perché in effetti proprio questo fa. Quanti sono le realtà che hanno aderito in questo, le città? C'è una città dove siete più forti o siete forti ugualmente in tutta Italia? Guarda, sicuramente i grandi centri sono il nostro punto di forza, quindi Roma, Milano, Torino, Firenze, Trieste, queste sono un po' le città, però siamo, diciamo, trovi tutto in trovi un poco in tutta Italia. Sì. E ad oggi sono più di 300 i punti dove è possibile non fare la fila, quindi stiamo crescendo in Italia. Non sono chiaramente ancora tantissimi, ovvio, perché 300, se pensi a tutta l'Italia, sono ancora un numero limitato, però bisogna avere fiducia, no? Buttarcisi e aderire, perché più persone aderiscono e scaricano l'app, ma soprattutto più enti aderiscono e più sarà, come dire, il sistema funzionerà meglio. Voi siete cresciuti molto nell'ultimo anno. Sì, per fortuna Curami sta diventando sempre più un brand conosciuto, naturalmente dagli utenti che utilizzano l'app molto volentieri, perché diamo un vantaggio abbastanza chiaro, ma anche dai business stanno capendo come Curami aiuta la propria utenza, ma anche i servizi che diamo al business diventano sempre più importanti per il business stesso. E questo incontro con Tim Cook com'è andata? Guarda, è stata un'esperienza per noi naturalmente eccezionale, perché sono quelle cose che non capitano mai, no? Quindi anche se sono stati pochi minuti, ma sono stati molto intensi. Sì. Sono stati più di una semplice chiacchierata. Cioè, ma è quasi come toccare un attimo una divinità, no? Cioè, si avvicina, esatto, al numero di Apple per uno come te. Bravo, per noi nerd credo sia il massimo aspirabile. Però, insomma, forse sono letto un po' di tutti i colori, ma tengo a precisare che è stato solo un incontro. Sì. Ovviamente abbiamo aperto un contatto con loro diretto, questo sì, ma niente ancora di business, ecco, solo un incontro conoscitivo, che comunque non capita quasi a nessuno di farlo. Quindi perché abbiamo, io dico personalmente, ho temuto a un certo punto, perché ogni volta che si legge la Apple mette le mani su o un qualche altro grande gruppo, si pensa che venga venduto. Magari tu sarei stato felice di vendere la tua idea alla Apple per qualche, non lo so, mila. Però poi quando pensiamo all'italianità delle cose, a un'app che nasce in Italia, che ha successo, speriamo sempre di in qualche modo di vederla crescere, ma che rimanga italiana. O è stupida, certo, questa idea? No, dipende da che punto di vista lo vedi. Comunque, anche se fosse un'acquisizione, fossimo acquisiti, comunque è una vittoria comunque dell'Italia, no? Quindi anche da quel punto di vista bisogna vederla anche così. Ovviamente oggi noi siamo in forte crescita, ma non siamo appetibili per un gruppo così grande, perché come tu hai detto, 300 posti sì che sono grandissimi clienti, ma ancora non sono tantissimi, soprattutto perché il nostro caso è ancora troppo italiano-centrico, e parte del nostro obiettivo biennale è quello di crescere almeno in Europa. Comunque, una startup nata dentro l'incubatore, l'acceleratore di imprese alla Luis and Labs, quindi un'iniziativa italiana. Facciamo un appello agli investitori, tra poco abbiamo le informazioni di borsa, tra l'altro, se c'è qualcuno interessato fatevi avanti, date una mano, no? Ma anche clienti, non solo investitori. Va bene, grazie. Ciao, grazie Roberto. Buona serata a tutti. E questa era Curami. Ci fermiamo, borsa, torniamo tra un attimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funk you up. Uptown funk you up. 'Cause Uptown funk don't give it to you. 'Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, ben ritrovati cari ascoltatori. Cominciamo con i vostri interventi. Giuseppe da Reggio Calabria, ciao, benvenuto. Pronto, buonasera. Ciao. Sì, tocca a te. Senti, e niente, volevo pure intervenire per quanto riguarda le piste ciclabili. Sì. Ecco, volevo farvi invitare a Reggio Calabria a vedere quello che hanno fatto di pista ciclabile a Reggio Calabria. Qualcosa di... se i soldi vengono spesi così, siamo messi male. Cosa hanno fatto? Raccontaci. Sospiro, perché altro... non posso immaginare cosa possano aver combinato a Reggio Calabria. Guarda, hanno disegnato su dei marciapiedi il rosso della pista ciclabile, ci hanno messo quelle sono le migliori. Adesso io non voglio preventivamente prendermela con Reggio Calabria, però quando le piste ciclabili vengono disegnate sul nulla, quelle sono le più belle, che non sono piste ciclabili, sono solo strisce per strada. Ecco, bravo. E questo hanno sono fatto. Sono state fatte queste, poi non solo. piste ciclabili e per delimitarle dalla strada, per evitare, hanno messo dei che ti posso dire, dei funghi di cemento. Aia. Più o meno. Che cioè, sono, per i, sono bambino, temutissimi dai ciclisti. Che ci pedala sulla pista ciclabile, sai come può sbandare, cade, ci sbatte con la testa. No, non solo ci sbatte con la testa, ma se ci inciampa con una ruota della bicicletta, perché quello bisogna dirlo a chi fa le piste ciclabili, quei cordoli lì sono temutissimi dai ciclisti, perché è una, soprattutto se sono a doppio senso, ti incroci uno con l'altro, ti devi allargare, e allora è un attimo che sfiori il cordolo. E... ma sai, questa me la potrei prendere col politico di turno, col tecnico di turno, ma quando l'hanno fatta il comune di Reggio era commissariato. Prendiamocela col commissario di turno, non è che sono esenti i commissari da critiche, anzi. Cioè, no, però, voglio dire, se si spendono i soldi così a sto punto del Rio, che ce li manda per le buche, per l'acqua che non c'è, per l'acqua non potabile, non lo so, ecco, decida lui il da farsi, perché se li dai in mano a questa gente non ne parliamo proprio. Allora, cioè, diciamo proprio... insieme, Giuseppe, diciamo insieme questa cosa. Cari amministratori, i soldi per le ciclabili, investiteli facendo delle cose sensate, oppure non fate nulla, perché è peggio. Ma secondo te, quando passa la pista ciclabile sul marciapiede e mi attraversa un negozio, e quello passa con la bicicletta e esce la signora o il passeggino dal negozio, cosa succede? Di tutto. L'abbiamo detto, grazie Giuseppe. Non fate ciclabili fatte male, pensateci, andate nelle città dove le hanno fatte bene, perché sennò poi è peggio. Poi gli automobilisti si arrabbiano con i ciclisti che non ci vanno sopra e diventa un disastro. Marcello da Genova. Pronto, buonasera Maurizio. Eccoci qua. Io chiamavo per quanto riguarda se era lecito dare le informazioni sugli atti di terrorismo oppure no. Sì. Io credo che non bisognerebbe dare risalto agli effetti degli atti del terrorismo, quindi fare vedere le vittime, tutte quelle cose cruente, ma le notizie bisognerebbe darle, perché altrimenti corriamo nel rischio di cadere nella censura. E sembrerebbe che abbiamo paura di dire che purtroppo queste cose accadono e chi le produce. No, non ho capito, no, bisogna censurare le conseguenze, tu dici. Cioè, non fare vedere le foto cruente delle vittime. No, ma quello già non si fa, quello già non si fa. I media indugiano su queste cose qua. No, il punto sollevato da qualcuno è il nome e la foto del terrorista in prima pagina, che sono i famosi 5 minuti o anche di più di notorietà. Quelli bisogna farli, è un dovere dell'informazione, oppure no? Senza aver paura, sia che sia italiano che non lo sia. Tu preferisci comunque che si sappia, che ci sia informazione, certamente, che ci sia trasparenza. Certamente. Anche a rischio di dare questa visibilità che magari qualcuno di loro potrebbe immaginare, no? Di avere. Ma io non credo che la visibilità sia quella, il fatto di dare la notizia che ne so, Pinco Pallino ha compiuto un attentato. La visibilità gli viene data con tutti i servizi che poi vengono fatti sul posto. Va bene, grazie. Prego, grazie. Giancarlo da Milano. Buongiorno, buonasera. Era solamente per dare un dato per quello che riguarda il cicloturismo in Italia e nel mondo. Sai quanto fattura la Germania per il cicloturismo ogni anno? No, diccelo tu. 9 miliardi. 9 miliardi è il fatturato della Germania, essenzialmente su una pista che è quella del Danubio, che dura 4-5 mesi, perché poi viene un freddo porco. Sono 9 Ti miliardi. Posso chiedere la fonte di questa notizia, così la facciamo una cosa? Sì, sì, perché è tanto 9 miliardi, no? Sì, sì, però... sì. La fonte si trova in giro, e mi sembra che sia ECF, che è l'Associazione Europea del Movimento... delle associazioni ciclistiche europee. La Francia fa 2 miliardi, sì, se non sbaglio. In Italia solo il Trentino, che ha 400 e passa chilometri di piste ciclabili, fa 100 milioni di euro. Allora, l'investimento fatto sul cicloturismo è un investimento che rende. C'è un altro studio che dice che ogni euro in Francia, ogni euro investito sul cicloturismo ridistribuisce sul territorio 2 euro, perché il cicloturista non è più il turista povero che come si pensava un tempo, ma è un turista attento, che si muove, attento alla gastronomia locale, e tentano tempo ai musei, compra le guide, si ferma sui posti e spenda sui posti. Benissimo. Quindi noi è un patrimonio che stiamo buttando via. Tu pensa cosa potrebbe essere il Salento, dove tranne due mesi all'anno, luglio e agosto, che fa un caldo... Sì, no, è chiaro Giancarlo. Invece io oggi ho letto da qualche parte dei post allarmati di chi teme che si vada verso la realizzazione di una nuova autostrada, la Bretella, la Tirreno-Brennero, credo, un pezzettino di autostrada che dovrebbe attraversare il Parmense, diciamo per accorciare l'angolo fra la Cisa e l'autostrada del Sole. Una nuova autostrada in una zona trafficata, ma non... normalmente trafficatissima, però è un piano già previsto anni fa e quindi continuiamo invece anche a fare autostrade. Io dico, non lo so, personalmente non conosco bene i dettagli di questo progetto, però c'è di che riflettere rispetto a quello che stavi dicendo tu, rispetto a quello che stavi appunto evocando tu, il cicloturismo, la tutela del paesaggio, l'Italia ne avrebbe indubbiamente da guadagnare. 800 24 00 24, Dario da Milano. Buonasera. Ciao Dario. Io volevo intervenire a proposito della visibilità data agli atti di terrorismo. Sì. Mi trovo in disaccordo sulla censura per due motivi. In primo luogo perché quella che insomma viene definita visibilità io la definisco democrazia, nel senso che l'informazione è democrazia e quindi... mi dà un po' fastidio il fatto che comunque ci sia qualcuno che scelga che cosa posso vedere o non vedere in televisione o sui giornali. No, già questo sì, ma non è che qualcuno sceglie, è per una questione, è perché può aiutare, secondo qualcuno, la teoria è questa, può aiutare a prevenire qualche attentato, no? Cioè non dare questa visibilità può sconsigliare qualcuno, può disincentivare qualcuno. È il solito discorso che facciamo, no Dario? Un po' meno di privacy, un po' meno di comodità, di comfort per avere un po' più di sicurezza, un po' meno di informazione anche per avere un po' più di sicurezza, ammesso che il teorema che funzioni. C'è un secondo motivo. Sì. Il secondo motivo è che a mio parere non può funzionare, nel senso che si possono autolimitare i giornali, si possono autolimitare le trasmissioni televisive o le radio, ma internet no. Internet si trova comunque il modo di aggirare la censura dell'informazione, lo si trova addirittura in Cina dove c'è un controllo stretto, figuriamoci se qualcuno che vuol prendere informazioni a proposito insomma dei movimenti terroristici. Sì, però se vuoi bloccare i social network lo puoi fare, perché la Turchia lo fa, la Cina lo fa, se vuoi bloccare YouTube lo puoi bloccare, se vuoi bloccare Instagram lo puoi bloccare per qualche ora, naturalmente per ragioni di sicurezza eccetera. Questo si potrebbe fare, poi che uno non lo voglia fare è un altro discorso. Grazie, ciao, buona serata anche a te. Io l'ho detto in apertura, ci vuole meno timidezza di fronte a queste iniziative, come per esempio quella di oggi alla chiesa di Saint-Étienne du Rouvray. Si sono ritrovati fedeli cristiani e musulmani a pregare insieme. La stessa scena si è ripetuta nella moschea della cittadina dove è stato ucciso il prete martedì scorso. Fatto eccezionale, un prete ha parlato dentro la moschea. Domenica l'appello dell'imam francese, tutti i musulmani vadano in chiesa a messa. È con noi Yahya Pallavicini, imam della moschea di Via Meda a Milano. Buonasera. Buonasera. Presidente o vicepresidente anche del COREIS, comunità religiosa islamica in Italia, giusto? Sì, esattamente. Cosa ne pensa di questa iniziativa? Ma noi l'abbiamo sostenuta con questo gemellaggio con i musulmani francesi dell'Institut des Hautes-Études Islamiques, che anche loro faranno domenica, a margine di alcune messe, una visita ai parroci di varie città di Francia. E abbiamo quindi preso questo modello, prima coordinandoci con loro e poi creando un coordinamento a livello nazionale in Italia, dove da Vicenza ad Agrigento, da Milano a Brindisi, cerchiamo di effettivamente portare una presenza di seria fratellanza ai parroci, anche in termini proprio di vicinanza spirituale e di rispetto del sacro a cui teniamo insieme. È un appello non formale che fate, cioè vi immaginate che poi ci saranno dei musulmani, dei cittadini islamici che vanno effettivamente in chiesa? Noi stiamo coordinando proprio i nostri referenti a livello locale perché facciano questo passo, lo facciano anche in maniera diciamo preventivamente coordinata con alcuni parroci di alcune parrocchie o alcuni vescovi in alcuni casi, come nel caso non so, di Agrigento o di Vicenza, perché effettivamente è un segnale che secondo me può essere di grande ispirazione per tutti i cittadini e in particolar modo credo per i credenti sia musulmani ma anche cristiani. Perché in passato iniziative simili sono state vissute magari male, no? Cioè la preghiera di cittadini islamici davanti al Duomo di Milano o cose del genere sono state vissute come intrusioni, magari come mancanza di rispetto. Oggi tutto questo, come dire, può essere lasciato da parte? No, perché invece dobbiamo chiarire il fatto che le delegazioni dei musulmani debbano andare a fare un saluto e a rispettare il rito specifico che i cristiani faranno prima o dopo questo momento di saluto, di convivialità fraterna, perché infatti la cosa positiva è proprio quello da un lato di enfatizzare una fratellanza che voglia insieme reagire alla violenza e alla barbarie, ma dall'altro lato all'interno di questa fratellanza non si tratta di occupare le chiese o i sagrati o gli oratori, piuttosto invece di riconoscere il valore delle chiese, degli oratori e dei sagrati, però nella loro specifica identità, e noi a essere buoni cittadini, ma direi anche buoni credenti che sanno veramente sostenere questo valore aggiunto dei fedeli e direi anche degli uomini e delle donne di Dio. Perché le faccio sentire un attimo, sì, le faccio sentire un attimo una dichiarazione di Filippo Facci, commentatore editorialista di Libero, che ha parole piuttosto pesanti nei confronti di tutti, più o meno tutti gli islamici, tutti gli aderenti alla religione musulmana. Sono cose magari già sentite, sono abbastanza pesanti, e però esprime un punto di vista che forse altri magari non dicono ma pensano. Senta. Io credo che ci sia un'incompatibilità di fondo per cui fondamentalmente, a parte delle eccezioni, gli italiani non vogliono gli islamici in Italia perché sono culture incompatibili, perché gli islamici non sono democratici, perché gli islamici perseguono tutti una teocrazia. Gli islamici perseguono tutti una... Io personalmente ho detto questo, ho detto se anche ce ne fosse uno che non persegue la teocrazia, che non è mio nemico, anche se ce ne fosse uno, io non userei mai l'espressione tutti, perché andrei a parlare con quello lì. Però detto questo, gli islamici perseguono la teocrazia? Ma gli islamici, cioè intanto i musulmani come i cristiani e gli ebrei e tutti i credenti dall'induismo fino all'islam appunto sono credenti in un Dio unico che si manifesta con sensibilità e dottrine e riti differenti. Quindi esasperare il culto ad una sensibilità spirituale volendo fomentare un disordine teocratico contro la democrazia è un pretesto che mi ricorda quello che i nazisti hanno fatto quando hanno ispirato ai fascisti le leggi razziali contro gli ebrei. Quindi questo è abbastanza grave perché il problema è che alla barbarie dei terroristi il rischio è di rispondere con una barbarie minore, ma è sempre barbarie psicologica. Al terrorismo si risponderebbe con un fondamentalismo. Invece dovremmo in qualche modo distinguerci sulla base di un'intelligenza, di una saggezza, di una sensibilità e di un rispetto fraterno o liberal reciproco che non metta invece nella demonizzazione una categoria umana contro l'altra. Benissimo, però le chiedo invece al contrario, lei se lo sarà chiesto, che cosa c'è che attira tanti terroristi, tanti aspiranti terroristi diversi a fare appello alla religione islamica e a viverla come un motivo per farsi saltare in aria, per aggredire, per uccidere? C'è qualcosa, non tanto nei testi sacri, perché questo mi interessa fino a un certo punto, citare il Corano, si può citare la Bibbia, porgi l'altra guancia, la legge del taglione, eccetera eccetera, nel modo di vivere la religione islamica, nelle culture che vivono la religione islamica oggi, che possa spiegare questa spinta alla purezza e a una volontà di redenzione paradossale, folle, che poi porta i terroristi ad agire nel nome di Allah? Ma la risposta è no, se non la manipolazione di alcune parti della dottrina che vengono decontestualizzate, appunto strumentalizzate per creare dei slogan, degli slogan, un po' come purtroppo è successo a suo tempo per altre fondamentalismi, tra virgolette, di carattere confessionale o altri fondamentalismi di carattere politico o filosofico, ma sempre più ideologicamente connotati. Il problema è che quando prendiamo una cosa, fosse anche una parte di buono, ma gli facciamo fare invece una vera e propria manipolazione genetica e un lavaggio del cervello, le persone che hanno purtroppo una anima magari un po' distratta o disordinata vengono attratte da questa, è come le persone che sono attratte dai film dell'orrore, ma non ci sarebbe niente di male. Il problema è che quando uno vuole fare il passaggio dal film alla realtà, e quindi anziché soltanto per me in maniera inconcepibile godersi uno spettacolo dell'orrore, lo vuole fare, e allora lì diventa una perversione. Lo chiedo a lei, che sicuramente è una persona erudita, è una persona culturata, è una persona che rispetta le regole della democrazia italiana, però è anche un imam. Per lei è più importante seguire le regole della democrazia italiana o il Corano? Ma le due cose non possono essere né scisse né soprattutto confuse o sovrapposte. È chiaro, ma che qualora potessero confliggere, cosa farebbe lei? Cioè, tra rispettare una legge dello Stato italiano e rispettare il Corano? Perché no, per me la risposta è chiara. Prima vengono le leggi del paese nel quale sto, poi viene la religione, che è un fatto che io privato, che vivo nel mio privato, ma le leggi vengono prima, sono più importanti. Ma questo è addirittura uno degli insegnamenti dei maestri, il fatto comunque che dove tu sei devi rispettare l'ordine delle regole del posto in cui vivi, se queste regole ti permettono la libertà di essere un praticante in senso dignitoso. Se non te lo permettono, attenzione, la via è quella comunque di emigrare, no? Ecco, ma non c'è mai come conseguenza il fatto di dire: siccome io non sto bene qui perché, non so, mi invento un alibi o una ragione, allora vado a fare un disordine civile. Questa regola qui è proprio, quindi per concludere con la risposta alla sua domanda, sì, sicurezza, coesione sociale, rispetto delle regole civili sono prioritarie e si integrano per me in maniera armoniosa con il fatto che, grazie a Dio, le libere democrazie permettono ai credenti di essere anche dei cittadini a pieno titolo. Senta, si può rovesciare anche l'appello che hanno fatto gli imam francesi ai musulmani ad andare in Francia, e che lei mi diceva che avete portato anche voi in Italia, quindi domenica invitate i rappresentanti delle moschee, dei centri culturali, semplici cittadini che fedeli musulmani, ad andare in chiesa in segno di rispetto, per omaggiare anche una vittima che c'è stata. Aggirare questo invito dentro le moschee, i cristiani a venire a pregare con voi? Questo può essere un ulteriore passo ancora di fratellanza e di manifestazione civile di una unità tra cristiani e musulmani. Ma noi abbiamo fatto forse qualcosa di ancora più simbolico in altri tempi. Abbiamo invitato delegazioni di rabbini ed ebrei a venire nelle nostre moschee. cosa che è stata ancora più sorprendente perché, come lei può immaginare, l'immaginario collettivo, anche in maniera abbastanza purtroppo giustificata, vede invece ebrei e musulmani in patità, come diceva il suo ospite di prima. E invece quello che noi dobbiamo far vedere, soprattutto almeno in Europa e in Italia, è che credenti e non credenti, credenti cristiani, ebrei e musulmani, devono concorrere in maniera rispettosa, cioè non confusa, ma anche insieme alle sfide che ci riguardano tutti. Va bene, grazie, buona serata. Yaya Pallavicini, imam di grazie Milano. Grazie. E quindi l'appello è questo: domenica i cittadini musulmani possono andare nelle chiese a partecipare al rito, e questo sarebbe un bel segnale. È tutto anche per questa sera, ma è tutto per questo periodo, quindi inizia un altro palinsesto adesso a lunedì prossimo. I programmi che ci saranno, alcuni ve li ho già detti, ci sono le Iene, Filippo Roma, tornano tante cose che avete già sentito in altre estate. Noi ci risentiamo intanto domani mattina alle 7.30 con il Si può fare del weekend insieme a Carlo Gavardini, poi ci risentiremo più avanti. Intanto un ringraziamento, come ho detto anche ieri sera, alla mitica redazione della Zanzara, Riccardo Poli, Riccardo Buccero, Leonardo Siligato, Pietro Lacorte in regia, un grande abbraccio, è stato bello essere insieme. Nicole Santini e Silvia Camesasca, insostituibili al centralino. Grazie a tutti, ciao da Alessio Maurizi, buona serata, ciao.